modula un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il più strano, l'ancetta tarda a scendere, vediamo un po'. Mettiamo la GC basso. È strano. Della morte. Che ti perseguiti? Dal tuo faro. Ho la paletta di un cino al telefono, dimmelo, dimmelo. Che sei un porco, ho tutto. Ah, che bello. E sei anche astemio. Sì, anche quello. Visto, Ecco qua, vediamo un po'. Ho messo il computer portatile. L'ho attaccato alla linea ADSL per aggiornarsi, che era parecchio che non si aggiornava, quasi un annetto, non è dico un anno ma quasi. Figurati. Gava gava, vediamo un po' qua, ok, tutto a posto. Meglio così. Nuddu, nuddu. Avete un tuo sentimento, confondendo. Salire in copertina. Come dato, per fare parte delle camere con il più buco. Pomponius. Dimmi. Eia, io sul portatile usavo una chiavetta della 3 con connessione telefonica della 3, solo che l'ho lasciato un annetto senza usarla e mi è scaduta. Allora ho preso una nuova SIM card, sempre della 3, che doveva avere 30 euro di traffico incluso, no? Vado a casa e vedo solo 3 euro. 3 euro di traffico, cosa ha fatto la ragazza? Ha sbagliato e anziché ricaricare i 30 euro non li ha caricati e mi sono trovato solo con i 3 euro della, contenuti nella scheda. Allora ci sono ritornato, hanno riconosciuto che c'era un errore e me li hanno caricati. No, non sia che l'altra commessa se li sia sgrafignati questi 30 euro e se li è caricati sulla sua scheda. Esagerato. Vabbè, potrebbe anche essere. Perché lo se ne è dimenticato oppure se li è bevuti questi 30 euro, non si saprà mai. C'è anche il telefono tagliato, sai. Dimmi, ripeti. C'è anche il telefono 3. Questo è del computer però, è una scheda, solo dati per navigare o per mandare messaggi. Ah, ho capito, forse va bene. Mi stavo addormentando prima quando ho sentito quello che è successo a un CB. Minchia, allucinante. Praticamente ha ceduto col freno a mano, ho scivolato per la strada scivolosa e l'ha beccato. Così è. E più o meno è quello. Diciamola, senti cosa c'ho io nel telefono. Guarda. Senti questo. Allora, per romare, a voi la 70 e la vengo di cosa che trovi su internet, no, su YouTube. Le registrazioni. Esatto, sì. Allora non posso cominciare, me la scorre. Guarda, va. Senti, Io mio marito mi sta picchiando. Vedi, subito non ti controllo la pace. Non ti devo fare. Ehi, con tutti i computer li trovi quelli. Sono chiamati, aspetta com'era, avevo un nome. Tipo radiomobile carabinieri, una cosa del genere. Sì, infatti, quello sia. L'altro giorno sono passato in via Brigata Sassari, parcheggiato c'era quel furgone brutto lì, quello bianco, volante nessù, mamma mia! Ero con lui, ero, l'altro giorno. L'interrogatorio ti stavo facendo. No, siamo amici. Capito, siamo amici, non è che... anche con l'artista addirittura, figurato. Quindi ci siamo trovati e siamo amici. Amici, cacchio. Amici perché non c'è più pica se ne zucca. Io se zucca ormai sono fuori dalle balle, capito? Quello che dicevi con lui è un'altra persona, quindi è diversa la cosa, capito? Non è che fa paragone tra una cosa all'altra, no? Sono tutti colpevoli, hai capito? È quello che è il bello che mi piace di lui, capito? Mi è così, cioè. Dice, sono tutti colpevoli, anche se io dice sono quello che sono tutti colpevoli, se sbaglio lo pagano, mi ha detto. Sia qui che sia di là. Il discorso è l'ho trovato giusto, è vero quello, non è che deve fare favori, capito? E quello mi è piaciuto. Tutti colpevoli nel senso che nessuno è in regola veramente, no? Certo, se non sbaglia, sbaglia, se non sbaglia pazienza, nessuno cerca, o mi sbaglio forse. E vabbè, anche noi siamo in regola propria adesso, ma non ci cerca nessuno perché non stiamo facendo niente di veramente grave. Se non crepa nessuno, nessuno ti cerca, scusami, come me, io con te ho stato più di 20 anni mollando di qui, di là, e nessuno mi ha mai dato fastidio a nessuno, nessuno mi ha mai cercato a me. Capito? Il discorso è questo, quindi chi li cerca a un certo punto? Non si cerca nessuno. Finché non sbagli, nessuno si incarta. Quando sbagli, c'è delle conseguenze, il discorso è quello. Sugli attimi che hai fatto, Mira, senti l'ambulanza, mi stanno venendo a prenderti. Meno male, era ora, me lo sono messo fatto, mi ricordo, e mi danno anche la patente, non sono là. Con la camicia di forza ti portano via. E anche quella, va bene, non lo faccio, cosa accade? Il tuo è bella. La camicia di sforzo. Per cagare. Oia, oia. Quasi quasi vado al computer, Antonio, e finisco di aggiornarlo, che è parecchio indietro, dai, sentiamo stasera, vediamo, boh. E vabbè, non c'è problema. Siamo qua. Va bene, a dopo, ciao ciao. Accordo, mi raccomando, farà bravo. Veramente io mi domando. Non fare come faccio io. Se non ti perseguitano, andare in... Non vado di subito a fare il maniaco, perché come si c'è una ragazza che è molto buona di fotografia su internet e vai con le frequenze, quindi mi sono innamorato, cosa devo fare secondo te? A un certo punto voleva fare quello tutti, no? Se sono innamorato, sono innamorato. Devo parlare lì. Gioia, ogni scusa è buona, dai. Va bene e ci sentiamo dopo. D'accordo, ok, alle prossime. Speriamo bene, per carità, capite? effettivamente, ma speriamo bene di non perdere un po' quello che abbiamo. Carità, l'ho vista, io c'ho prima, mi stavo guardando Napoli, ma è una cosa pazzesca, veramente, grande squadra, sta Roma che non molla, vabbè, buonasera a tutti comunque. Dai Giulia, ci sentiamo dopo che c'ho gente, un po' di Juventini, stiamo scendendo in Italia, mi lascio vedere la partita a Santa Barbara. Ok, ciao Cla, ciao, ci sentiamo, speriamo bene, salute, Dio, ma comunque, io forse tutti i Juventini, ciao Cla, ciao. Ciao Giù, ciao, sono Falchità, c'è mio genero, dovremmo vincere, ce la dovremmo fare. Ciao, a stasera, vai, a dopo, ci sentiamo dopo. Ok, grazie, a dopo, ciao, ciao. E beh, Luca, chiuso mai questo malacchino? Ha detto Luca? Benito, mi senti? Ho il microfono qua, mi senti?